io la ritengo molto molto pericolosa e che non va assolutamente sottovalutata. Oggi si usa il pretesto dei Novax, non Green Pass, per restringere ulteriormente gli spazi di libertà di movimento, di agibilità politica all'interno di questo paese. Questo avviene alla vigilia anche di provvedimenti che il governo si appresta a varare, dalla legge finanziaria alla riforma pensionistica, tutte provvedimenti che di fatto toccheranno le sorti di migliaia di milioni di cittadini, insomma. Quindi necessariamente su questo era già previsto e si prevedono delle manifestazioni, delle rivendicazioni. Vietare i cortei, vietare le proteste vicino ai luoghi istituzionali mi sembra letteralmente comprimere ulteriormente il diritto di manifestare in questo paese. E del resto è noto che quando un sistema non ha più soluzioni sociali, di risposte sociali verso quello che è un disagio latente, si blinda, vieta, reprime e usa sempre poi la caratteristica del creare il nemico pubblico, e in questo caso il nemico pubblico sono coloro che in questi mesi hanno manifestato contro l'uso del Green Pass. Ma io credo che su questo ci sia anche un forte deficit di dibattito reale nel nostro paese, insomma. Io ho fatto anche la terza dose di vaccino, sono convinto che il vaccino serve a contenere la diffusione del virus, a dare maggiore sicurezza a fronte di quella che è una pandemia e della pericolosità che il Covid ha emesso e produce all'interno di tutto il paese, non solo il nostro, insomma. Però penso che il Green Pass, così come è stato pensato e attuato, non ha nulla a che vedere con le norme di prevenzione sanitaria. È uno strumento chiaro, voluto dalla Confindustria in modo particolare per deresponsabilizzarsi ulteriormente e per non prevedere ulteriori prevenzioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, insomma. È paradossale, ad esempio, che il Green Pass deve essere usato per andare a lavorare, poi ti puoi recare nei centri commerciali pieni di gente e questo non viene richiesto, così come lo vediamo quotidianamente nei mezzi di trasporto pubblici: le persone sono ammassate per recarsi al lavoro, a scuola, per muoversi dentro una mobilità già difficile all'interno delle nostre città, insomma. Quindi penso che c'è stato letteralmente una riduzione, un deficit reale di dibattere di come questo strumento serve ulteriormente non solo a un nuovo modello di controllo sociale, ma anche alla creazione di un nuovo nemico pubblico da buttare agli occhi della gente. Penso che su questa vicenda qua del Viminale e il governo che si appresta alla restrizione ulteriormente della libertà di manifestazione nel nostro paese, ecco, a me preoccupa molto il silenzio di settori cosiddetti democratici, progressisti e della sinistra. Anzi, vedo che in molti di questi settori c'è anche un plauso al governo, insomma. Io questa cosa lo vedo invece molto molto pericolosa, insomma. È un po' come dire continuare con quella scia di leggi emergenzialistiche speciali che ormai è la storia del nostro paese da più di un quarantennio. Ecco, ricordo bene che quando ci fu l'approvazione, ad esempio, del DASPO da applicare alle tifoserie del calcio, molti rimasero silenti, altri applaudirono anche dicendo che era necessario. Poi abbiamo visto che il DASPO è stato esteso a tutte le forme di disagio sociale, insomma, in modo particolare ha fatto un ingresso trionfante all'interno dei decreti Minniti Orlando e dei decreti Salvini sulla sicurezza, insomma. Vediamo che oggi il DASPO viene applicato su tutti i settori marginali della società, dai poveri ai mendicanti ai lavavetri, insomma. Ecco, se noi oggi questo provvedimento del Viminale passa, secondo me sarà un ulteriore elemento per espellere totalmente dall'agenda politica italiana il conflitto sociale, le rivendicazioni, la vertenzialità. Serve per costruire sempre più una società priva di conflitto e quindi necessariamente priva anche di democrazia. Un ulteriore elemento in questo provvedimento, lo abbiamo sentito dalle parole del sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, sembra quasi che voglia tutelare il diritto allo shopping, perché appunto le manifestazioni restrizioni interferirebbero, disturberebbero gli acquisti nei centri cittadini. Sì, questa è la dimostrazione reale di come il profitto conta più della socialità e della democrazia vera in questo paese. Del resto, cioè, quando ci si viene a dire ma le manifestazioni provocano disagio, le manifestazioni servono anche necessariamente perché si mette in evidenza una rivendicazione, insomma, come dire, tra virgolette, i bottegai si sono sempre lamentati delle manifestazioni, è la storia di questo paese, basta fare una ricerca storica di quelle che erano le lamentele durante l'autunno caldo, durante le varie fasi di lotta degli anni 70 nel nostro paese, insomma. Il problema vero è che a fronte degli attacchi sempre più violenti che il governo attua nei confronti dei lavoratori, nei confronti dei precari, nei confronti delle classi sociali più disagiate, la risposta è da un lato tutelare il profitto dei soliti noti e dall'altro lato restringere libertà di manifestazione e blindare i loro provvedimenti, insomma. Ecco, io sarei molto molto molto attento a fronte a di quello che si sta succedendo in questi mesi nel nostro paese, soprattutto in questa ultima settimana, insomma. Comprimere il diritto di manifestazione usando a pretesto i Novax sembra un film già visto che poi il prezzo lo pagheremo tutti quanti noi.